Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti alla puntata del 6 gennaio. Questo inizio di anno nuovo coincide anche con il primo anno di trasmissione di Si può fare cronache da un paese migliore, e visto che questa è l'epoca dei bilanci non ci sottraiamo, anzi da proprio tra qualche giorno vi proporremo un concorsone quasi come quello scolastico. Non si vince un posto di lavoro, però insomma ci saranno dei premi, saremo più precisi tra qualche giorno. Vi chiederemo di votare le storie migliori di questi primi 12 mesi di programma, ma vi spiegheremo tutto tra un po'. Intanto vi ricordo i nostri contatti: Si può fare trattino Radio 24, la nostra pagina Facebook, e poi siamo anche su Twitter, e Si può fare 24. E noi diciamo sempre che se notizia non è il cane che morde l'uomo, ma l'uomo che morde il cane. Allora, in questi tempi di crisi economica, la notizia è quando un'impresa non chiude, quando assume, quando nasce un'azienda nuova, oppure quando si riscopre per esempio il gusto di lavori che servono ma che sembravano dimenticati, dall'artigianato all'agricoltura. In questi tempi, tra l'altro, di denuncia della casta politica, la notizia è laddove un sindaco, un amministratore locale fa il suo lavoro e lo fa per bene. Questo secondo noi è il concetto di notizia, a meno che vi abbiamo proposto in questi primi 12 mesi di Si può fare. E a proposito di politica, questo è stato l'anno nel quale la politica ha fatto alcuni passi indietro. C'è stato il governo dei tecnici, non è piaciuto a tutti, ma questo non importa. Ha cercato di ridare un po' di credibilità alla nostra classe politica, si sono affrontati alcuni nodi in cui si parlava di queste cose da tempo ma nessuno faceva niente. Pensiamo alle pensioni, alla questione dei conti pubblici ed altro. C'è un mondo di amministratori locali, grandi e piccoli, che questi problemi prova a risolverli da sempre con spirito pragmatico, e a volte i problemi li risolve per davvero. E c'è una soluzione comune che sta interessando molte di queste amministrazioni: sfruttare le potenzialità della green economy per ottimizzare le proprie scarse risorse economiche. I rifiuti in quest'ottica, per esempio, diventano una risorsa. Ad Aquilonia, con una macchinetta raccogli lattine e bottiglie di plastica, la raccolta differenziata ha fatto un boom in avanti. Partiamo da questa storia, abbiamo intervistato il sindaco di Aquilonia, Donato Cataldo. It's a magic number, yes it is, it's a magic number, because 2 times 3 is 6, and 3 times 6 is 18, and the 18th letter in the alphabet is R. Yeah, we got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle, reduce, reuse, recycle. E questo è un po' il ritornello, la sigla che abbiamo scelto di utilizzare ogni volta che parliamo di riuso e di riciclaggio dei rifiuti, perché c'è un'iniziativa partita quasi 2 anni fa, un po' in sordina, nel comune di Aquilonia, siamo in Campania, in provincia di Avellino, e che adesso, a quasi 2 anni di distanza, invece mostra tutta la sua forza, portando questo comune sulla soglia del 60% del riciclaggio dei rifiuti. E tutto grazie, forse non proprio tutto, ma insomma molto grazie anche a una macchinetta mangia plastica. E allora è così, forse non tutto è merito di questa macchinetta che avete acquistato quasi 2 anni fa, però molto. Un sistema che premia i cittadini a portare e a riciclare plastica e lattine, in cambio hanno dei punti che poi possono spendere per fare una serie di cose, sindaco. Esattamente, sicuramente il merito rispetto a quella percentuale così alta non è tutto della macchinetta, ma l'intento, quando aderimmo ad un bando della Regione Campania per l'incentivazione della raccolta differenziata, era proprio quello di dare un messaggio culturale ai nostri cittadini e affrontare il problema della raccolta differenziata in maniera un po' diversa, ecco, da come generalmente l'avevamo visto affrontare in Regione Campania, cioè in maniera

e questo ci piace dirlo. È un'altra eccellenza, insomma, anche questa. È importante perché al denaro deleghiamo tutto, sì, talvolta anche il racconto dei nostri prodotti, e invece anche senza il denaro si possono scoprire altre ricchezze, perché la relazione può produrre innovazione, almeno questa è la mia storia. Insomma, noi vi verremo a trovare ancora quando sarete diventati, anziché 70 aziende, sarete diventate 170, perché mi diceva che il ritmo di sviluppo di tutto questo è impetuoso. Io vorrei sempre stare con lei, Daniela Ducato, perché è bellissima la sua storia, lei è coinvolgente. Invece ci dobbiamo separare qua, lei rimane in Sardegna, io a Milano, peggio per me. Ci sentiremo più avanti, grazie. Grazie, buon lavoro. La settimana della cronaca ci lascia sempre un po' scoraggiati, ma un'altra attualità si può fare, basta guardare dalla parte giusta, dalla parte del coraggio e della fantasia. È quello che cerchiamo di fare ogni sabato e ogni domenica a mezzogiorno su Radio 24, da un anno, raccontando piccole e grandi storie virtuose che ci raccontano come l'Italia potrebbe essere. Seguiteci su Facebook, si può fare trattino Radio 24, su Twitter si può fare 24. Una puntata, quella di oggi, di bilanci di fine anno, anche per quanto riguarda noi di si può fare un bilancio di questi primi 12 mesi a caccia delle buone notizie e delle nuove tendenze, diciamo noi, che ci salveranno. Vi ricordiamo anche che dai primi di gennaio vi proporremo un concorsone, vi chiederemo di votare le storie migliori che avete sentito in questo primo anno di Si può fare, si vinceranno dei premi, saremo più precisi tra qualche giorno. Iniziative e fantasia spesso sono la chiave vincente per uscire in modo brillante dalle situazioni più difficili. Cosa c'è di più difficile della situazione delle scuole italiane? Alle prese coi tagli del governo, con i genitori sindacalisti che contestano sempre di più l'autorità degli insegnanti, gli insegnanti sottopagati e poco aggiornati, e gli studenti alle prese e persi forse nei loro smartphone. Insomma, cosa c'è di meglio per superare tutto questo di una bella giornata passata a tinteggiare i muri della scuola? Questo accade a Gallarate, ne abbiamo parlato con Ivano Ventimiglia, che oltre a essere presidente della commissione edilizia di questo comune alle porte di Milano è anche genitore. Sentiamo. Genitori dei frequentanti, studenti, le scuole di Arnate Madonna di Campagna, siamo a Gallarate, questa mattina si ritrovano per ripulire, imbiancare e non so che cos'altro le loro scuole, la loro scuola, dopo la firma di una convenzione con il comune. Adesso sì, ci spiegherà tutto come funziona questo progetto, perché lei è anche nella veste di presidente della commissione, quindi diciamo sa anche spiegarci i termini di questa convenzione che vede uniti il comune e i genitori della scuola per così tenere in piedi un po' l'edilizia scolastica. Però prima di tutto ci dica, in realtà ci state un po' mettendo una toppa, insomma, perché ritrovarsi il sabato a imbiancare la cancellata non è il massimo. Beh, uno preferirebbe andare a fare un picnic, o no? Beh, con una battuta potrei dire che se di toppa si tratta, è una bella toppa. È una bella toppa, questo sicuramente. Veramente vorrei farle vedere qui in questo momento, sono proprio insieme ai genitori, stiamo riverniciando la cancellata esterna del plesso di Via Madonna in Campagna, siamo qui in mezzo a pennelli, carta vetro, insomma attrezzi, arnesi di ogni genere e tipo, forniti con i materiali forniti dal comune grazie proprio a questa convenzione di cui parlava. Insomma, vi state anche divertendo. Occhio al lavoro minorile, non esagerate. Di che scuola stiamo parlando? Di che livello? E questo plesso scolastico comprende la scuola dell'infanzia, scuola materna, e la scuola primaria. O quindi scuola escludo che i bambini stiano, se non giocando con i colori, fossero le scuole medie, già si potrebbe cominciare a ragionare. I genitori invece sì, protagonisti in prima persona di questo progetto, dica in che cosa consiste? Sì, è molto semplice, cioè il percorso che è stato intrapreso ha seguito praticamente diverse fasi di analisi, diciamo, degli interventi necessari da fare. Ovvio che a un certo punto si è stabilito, visto che c'era un comitato di genitori decisamente coeso e motivato, e a questo punto bisognava trovare la soluzione per renderlo operativo. Perché è ovvio che sulle manutenzioni straordinarie, cioè le manutenzioni straordinarie continueranno ad essere a carico del comune, questo è normale, dell'amministrazione comunale. Cioè gli interventi più strutturali, più di sostanza, che richiedono anche un valore aggiunto in termini, insomma, ingegneristico. Sì, sì, sì. E certo. E quelli che peraltro sono già stati terminati dopo qualche anno di rinuncia o chiamiamola un po' di incuria, diciamo che erano concentrati più per altri edifici scolastici. E cosa è successo? A un certo punto si è detto proprio, bene, come attivare però questi genitori? Ci si è pensato un po', poi sono entrato in contatto con la presidentessa dell'associazione di cui fanno parte tutti questi genitori. Genitori Arnate e Madonna in Campagna. Arnate e Madonna in Campagna. Abbiamo discusso un attimino più in dettaglio, sì, per cercare una soluzione. E devo dire che la nostra presidentessa Elena Brambilla ha avuto un'ottima idea, ha costituito un'associazione attivando anche due assicurazioni, una RCA e una contro gli infortuni, in modo che ogni iscritto che è presente oggi a lavorare, sì, che lavorerà in futuro, avrà anche una copertura assicurativa per danni nei confronti di se stesso e danni a terzi. Quindi in pratica il comune ci mette i materiali, se ho capito esattamente, bene. Esattamente. L'associazione ha pensato alle assicurazioni, perché non si scherza, bisogna fare tutto nella sicurezza. Certo. E voi, genitori, insomma, abitanti della zona, ci mettete l'impegno, la buona volontà e alla fine tutti ci guadagnano. Credo, diciamo, a partecipare anche, sì, con festa, sì, a partecipare festosamente a queste iniziative che vengono poi decise. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo, sì, perché è un altro valore, secondo me, aggiunto, insomma, di questa convenzione. Noi abbiamo anche un tutor che è il geometra Mattaboni dell'ufficio tecnico del comune di Gallarate, che è stato nominato dal dirigente, tutor incaricato di seguirci come referente per tutte le necessità nostre, sì, e per concordare progetti di intervento, verificando insieme fattibilità, modalità di intervento, materiali da fornire e quant'altro. Quindi nella convenzione esiste proprio nero su bianco una lista degli interventi, sì, di cui possiamo occuparci. Abbiamo anche un tutor, abbiamo un assessore che ha risposto da subito, l'assessore dei lavori pubblici Luigi, sì, Roma, ha risposto. Vabbè, adesso non esageriamo con i ringraziamenti istituzionali perché sennò facciamo troppi spot, però abbiamo capito il senso di quello che lei diceva, perché è un progetto che vede impegnati molti attori, l'abbiamo detto. Potrebbe essere qualcosa di esportabile, secondo lei? Credo poi al fine che sia anche un modo, in un comune non piccolo ma neanche grandissimo come il vostro, per mettersi in gioco, fare squadra, creare identità attorno al tema della scuola, trovarsi, passare un sabato in una maniera diversa e però, insomma, anche fare un lavoro utile. Lo ritiene un modello in qualche modo esportabile? Ultima domanda, ne ho fatte tre in una. C'è qualcuno che ha storto la bocca? Qualcuno che ha detto, beh, no, ma... No, devo dire la verità. Allora, come da sempre, sì, mi risulta accada, i comitati, i genitori tentano sempre, insomma, di darsi da fare. Il problema, l'unico problema qui era riuscire a trovare un modo per formalizzare. Mancava lo strumento. Esatto, e adesso c'è un percorso, ecco, è solo quello. Nessuno ha storto la bocca, anzi, quando, non a caso dicevo, anche l'assessore, quando ho proposto poi questa sì, questa associazione, quindi la convenzione, ha detto benissimo. E oserei dire, è proprio lì che ho pensato, mi sa che si può fare. Benissimo, allora anche questo finirà in un spot di promozione del programma. Io vi ringrazio per il vostro impegno, per la vostra storia, e invito i genitori, gli assessori dei piccoli comuni, i sindaci che stanno ascoltando a capire il modello Galarate, possiamo dire, da questo punto di vista, e magari a riproporlo e ad adottarlo. Grazie intanto a voi. Posso aggiungere, sì, scusi, solo un'ultima cosa di corsissima. Guardi, il sito www.agamica.org è, sì, quello dell'associazione. Per, dirò di più, a Gallarate, ma anche, non so, da fuori, se qualcuno volesse prendere contatti per avere un'idea della, sì, sulla traccia, eccetera, eccetera, massima disponibilità, contattando il farete comune, voi stesse da tutor a chi voglia, diciamo, no, copiare magari la vostra idea. Magari solo per abbreviare i tempi, insomma, visto che per noi è stato un percorso lungo. Avete trovato una strada, è giusto spiegarla a chi fosse interessato. Il sito, l'abbiamo detto, www.agamica.it. Grazie. No, .org, va bene. .org, .org. Siamo precisi. Grazie mille. Grazie. Buon lavoro. Mille. Grazie, arrivederci. Un pomeriggio passato ad imbiancare la scuola, quello che avete sentito appena poco fa a Gallarate, è senz'altro una cosa che uno si ricorda anche da grande. Sono quelle esperienze che formano, puntano moltissimo sul concetto di formazione e di investimento per il futuro, anche i fautori di questa buona pratica che abbiamo ospitato a Si può fare. Parliamo dei promotori dell'economia del bene comune. Si tratta di un libro di Gunther Reifer e anche di un'associazione che porta lo stesso nome, l'Associazione dell'Economia del Bene Comune, che ha sede a Bolzano. È una rete di amministratori e di imprenditori che sta crescendo fondamentalmente pensando questa cosa qua. Non pensate solo a guadagnare tutto oggi, ma pensate a seminare per il futuro. Sentiamo. Chi non lavora non fa mi ha detto ieri mia moglie. Chi non lavora non fa l'amore, questo mi ha detto ieri mia moglie. A casa stanco ieri ritornai, son seduto, niente c'era in tavola. Arrabbiata lei mi grida che ho scioperato 2 giorni su 3. Coi soldi che le do non ce la fa più ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me. Chi non lavora. Questa canzone, perché l'avviso ai naviganti di oggi ha a che fare con il titolo di questa celebre canzone di Celentano, perché c'è chi sembra muoversi in direzione quasi opposta, che potremmo sintetizzare così: vivere bene per lavorare meglio. È un movimento che si chiama L'economia del bene comune, è un libro di Christian Felber, sbarcato pochi mesi fa in Italia. È un movimento di aziende che si sta muovendo in Italia, e sembra che sia dimostrato che chi segue questi principi riesce addirittura a produrre meglio, a produrre di più. Uno di questi principi, per esempio, prevede che si abbia una cura estrema del personale delle proprie aziende, fino a concedere obbligatoriamente l'anno sabbatico, la cura dei propri familiari, tutta una serie di cose che apparentemente vanno contro invece il concetto di produttività. Basta pensare a quest'estate, quando un sottosegretario del governo Monti diceva che bisognava rinunciare alle ferie per lavorare di più. Lei è membro di questo consiglio di amministrazione dell'economia del bene comune. Siete un'associazione, in pratica, che è sbarcata in Italia dall'Austria, se non ho capito male. Sì, infatti, da Vienna, dove abbiamo praticamente la nostra sede. Sì. Siamo un gruppo praticamente di imprenditori, sì, che hanno deciso di voler cambiare sistema. In che modo? Beh, noi cerchiamo di mettere al centro delle nostre attività non più esplicitamente o solo il profitto o il fatturato o la crescita. Noi infatti vogliamo massimizzare il bene comune, cioè che le aziende stesse non vengono soltanto misurate quanto crescono, sì, ma quanto fanno per il benessere di tutti noi. Che è una cosa importante, perché non sta magari nel PIL, però sta nel benessere, nella felicità, nella soddisfazione di ognuno di noi. Ci vuol fare qualche esempio, signor Reifer? Beh, noi abbiamo creato, cioè noi siamo una centinaia di imprenditori, abbiamo creato una matrice, che, o un bilancio per dirlo così, che praticamente misura esattamente quanto un'azienda attualmente fa già per il bene comune, così che possiamo o cerchiamo di poi porci obiettivi per aumentare. Ma per fare qualche esempio concreto, per capire questo bene comune, quali sono questi criteri, alcuni di questi criteri? Allora, abbiamo individuato 17 criteri, sì. Uno per esempio è la gestione etica delle forniture, cioè tutto quanto che serve a me per produrre, per esempio se sono un produttore di immobili, sì, da dove viene il legno, da dove viene tutto quello che mi serve a farlo, questo viene esattamente diciamo analizzato per renderlo un po' a un cerchio chiuso, questo sì, per esempio una cosa, oppure ma anche etica delle finanze, da dove vengono i soldi che finanziano, no? I propri progetti. Appunto, io avevo citato nell'introduzione la cura anche del personale delle aziende, che spesso ci se ne occupa poco, e invece paradossalmente bisogna investire, voi dite, perché si avrà un ritorno poi da parte delle persone che lavorano con più soddisfazione, con più gusto, meglio. Anche questo è un criterio del bene comune? Questo sono, cioè, un paio di criteri sono legati a questo fatto. Infatti noi non parliamo più dei vecchi piedi del marketing, no? Prodotto, prezzo, comunicazione o vendita. No, noi abbiamo cercato di mettere al centro i tre nuovi P dell'inglese, il people, le persone, il pianeta, il planet, e ovviamente anche ogni azienda deve fare un profitto, perciò questi nuovi tre P, pianeta, people e planet. E per questo abbiamo poi creato questi 17 criteri, per esempio qualità del posto di lavoro, suddivisione equa del carico di lavoro e tanti altri. Sì, però voi non è che siete dei filantropi che volete, no, fare del bene al mondo così a spese vostre, voi siete convinti che usando questi criteri per il bene comune, quindi non solo per il profitto dell'azienda, però poi all'azienda stessa qualcosa prima o poi ritornerà anche in termini di profitto, è così? Assolutamente, diciamo sono più cose che stanno dietro, ovviamente è un cambio di sistema, un cambio di paradigma come vogliamo fare economia, dove al centro infatti ci sono nuovi obiettivi, non il PIL ma una crescita qualitativa dell'azienda stessa, ma ovviamente ogni azienda deve fare profitto, così che anche i clienti stessi guardano più a queste aziende che ottimizzano il bene comune, o, e se questo è anche una cosa molto importante, i collaboratori stessi sono molto molto più motivati, perché non lavorano soltanto per un imprenditore che è orientato al profitto, no, è orientato a un'azienda che dà un contributo al mondo un po' diverso, cioè praticamente dove il senso stesso del fare è al nucleo. È diverso. Certo, e la vostra associazione, l'economia per il bene comune, quante aziende, forse ha già dato qualche numero in apertura, ce lo vuole ricordare, quanti imprenditori, quante aziende, quante persone sono coinvolte, e se ci sono anche dei settori specifici di aziende, oppure se siete un po' trasversali? Ma siamo molto trasversali, cioè da banche che hanno già aderito fino a aziende di costruzione edilizia di 2000 diciamo, dipendenti, cioè ce n'è di tutto. E in totale mi sembra che siamo ormai 8.000 sostenitori in tutto il Middle Europa, e mi sa che 800 aziende hanno già fatto questo cosiddetto bilancio del bene comune. E in Italia? Prevalentemente siamo molto focalizzati attualmente al nord, qui in Alto Adige per esempio siamo in una cinquantina di imprenditori che hanno già messo in atto questo concetto, e pian pianino abbiamo anche dei colleghi a Verona, a Brescia, a Milano, a Torino e così via, dove ci sono tante persone che hanno interesse. E va bene, insomma, noi la ringraziamo per averci spiegato di che cosa si tratta l'economia del bene comune. Grazie Gunter Reifer. Speriamo che questa cosa vada avanti, si estenda ancora di più, perché questo è il nostro avviso ai naviganti di oggi, insomma, a investire nel personale, nell'ambiente, e a controllare come operano le vostre aziende. Cari amici imprenditori, ci avete solo da guadagnare. Grazie ancora, buona giornata. Buona giornata. Ed è tutto per questa puntata di oggi di Si può fare, puntata di bilanci. Abbiamo ripercorso alcune delle tappe di questi primi 12 mesi di buone notizie e di nuove tendenze che, diciamo noi, ci salveranno. Io vi ricordo intanto i nostri contatti su Facebook, Si può fare trattino Radio 24, e su Twitter Si può fare 24. Tra qualche giorno avrete le nostre notizie, perché lanceremo il concorso per votare le storie migliori di questi primi 12 mesi. Io ringrazio anche Franco Piantanida in redazione. Per oggi ci fermiamo qua. Vi lasciamo alla nostra segreteria telefonica. Per salvare l'Italia occorre sviluppare quello che da centinaia d'anni e migliaia d'anni abbiamo sempre portato avanti: agricoltura, turismo e artigianato. Artigianato di alta precisione, come già esiste. Dovremmo trasformare l'Italia nella California d'Europa, mettere a disposizione strutture per l'istruzione, quindi creare una serie di atenei e scuole dove tutti gli europei, e non solo gli europei, potrebbero venire a trascorrere periodi di svago, divertimento e studio. Avremmo sicuramente, visto che siamo la patria della cultura, avremmo sicuramente un grandissimo seguito e probabilmente avremmo trovato il modo di fare soldi senza inquinarsi. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.